dove puoi vedere un po' quasi tutto e per cui bisogna essere sempre presente. O no già? Papà, fammi, ho fatto sedere mani fuori, adesso sto rientrando, là, mi fermo 5 metri al quadrato, fumo una sigaretta e poi me ne sto. Non stavo seguendo perché stavo salutando mia nipote, io mai scusami, perdonami, ma non ero in macchina. E ci mancherebbe altro. Attendi, tranquillo e pacifico, vediamo un po'. Giuseppe Leoncino, avanti. Ciao Giovanni, buonasera. Un attimo, stavo spiegando a Gianni Capri 2 di quei modelli della Fayette H23. C'ha la manopola quella blu, è capito, con i canali, e l'altro è senza manopola blu normale, è capito, la Fayette 23 canali HB 23 normale. E c'è il microfono bianco e nero, quello lì è APA. E quello ne è uno, mi sembra. No, perché Pomponio mi ha detto che era marchiato 1967, è capito, quello che sto dicendo io è uscito negli anni 70, è uscito, Gio Maria già lo conosce, è vero Gio Maria? Ehi, a buia, come? E ho avuto che parecchio tempo anche, e infatti, così che sono tutte e due a fare, è vero Giuseppe? Stavo dicendo a Gianni Capri 2, questo qua è del 1967, hai capito? Uno dei due, perché l'altro che mi stai dicendo, diciamo che è il classico HP che dico io ci sono negli anni 70. Quello è del 1967. Allora non è l'HP che sto dicendo io. Grigio e il baracchino, e come si chiama, i pannelli grigi sono? No, non sono grigi, sono, vabbè, e le cose sono sul nero, hai capito, sul nero, e però la mascherina è davanti è nera. E la senza cromatura? Via. Non li conosco io, no? Non so, non li conosco assolutamente. Magari è roba che era allora, quando sono usciti i baracchini qui, o non è mai arrivata nei negozi, hai capito? Perché qui hanno iniziato a arrivare quei propri classici da 71, 72, hai capito? E qui anche c'ho io e poi, hai capito? Altro tipo non mi risulta, no, hai capito? Adesso poi mi salgo il tablet a vedere se riesco a trovare qualche cosa. Riprendi Gianni Doppio Ru, ci sei? Certo che ci sono, sono sempre qua. E sto andando per fermarmi così, ma sono un po' tranquillo. Mi fumo una sigaretta e poi metto non arrivo a casa, eh. Vabbè, bisognerebbe vederli questi apparecchi come sono. Quando parliamo di HB23 parliamo del classico HB23, poi ne era uscito un altro tipo che so come è fatto io, che aveva lo sfondo tipo Furnica, Gio Maria, capito hai? E poi non ne conosco altri, riprendi Gio Maria. Ok, beh, c'è la Fayette Texture, anche quello che ho io, Io me le metto in macchina, ci diamo un appuntamento e te le guardi e poi mi dici se ti interessano o no, dimmi quando sei disponibile. Ecco, grazie, ha registrato, le usci in settimana oggi no, perché hai capito, è un'ora che domani devo lavorare, niente, in settimana vediamo, ma sono anche curioso di vedermi. Avanti Graziano, ti ributtiamo il cambio, vai, al volo, mi c'è anche Gio Maria. solidarietà, salute e casa. Bene, bene, Giuseppe, allora avanti, hai sentito cosa ti ha detto? È una settimana di anni, ha detto. E non ci sono problemi, non c'è problema. Aspettami qua, lo distacco 5 minuti e te lo faccio sentire. Lo faccio sentire a tutti, dai. Siamo qui, Giuseppe, attacca, a me sono sempre Giuseppe. Perché sono veramente curioso di vedere se ce ne sono io o con il classico HP che ce l'ho. Non funziona, Gio Mari, ma ce l'ho perché, hai capito, è arrivato tanto tempo a tempo. Sono a posto, tutto quanto, capiterà sempre buttato a casa di mamma, e poi l'avevo portato, perché già era dall'epoca che, perché avevo pigliato il Costat, non lo usavo, e poi l'avevo messo da una parte. E, cosa ti stavo dicendo, Gio Mari? Il commissario ce l'aveva preciso, con la KB23 ce l'aveva, e lo sai dove lo teneva, dentro là, nel cofano, nella sigla, poi ha dato una cosa con un cammino di calzaia, altra volta che lo tieni io, ho detto questa roba che si incasina, dentro un sacchetto ce l'aveva, una bocca che non finiva mai. Ok, già li do più, riprendi al volo, vai, acciappa. E al quadrato non li posso far male, deve essere che c'è in casa la Dinamo Bacco di Sardegna e quindi mi sto allontanando e sto andando a tappettino a fermarmi, dai, già va bene anche qua. Attenzione Gianni, chiaro, Gianni. Papà. Ok, mi prendi, grazie, vieni avanti, vieni. Stai uscendo comunque, il segnale è buono, però la radio è molto bassa, Giuseppe. Bassa? Aspetta, posso bere le cose, Giuseppe, che se non c'è radio, vai. Riprendi e già. Ok, no, io non lo sento, Gio Maria, non lo sento, c'è il segnale, ma proprio la radio è diciamo, è scarsa. Giuseppe, mi ascolti? T'ascolto già, t'ascolto, sono basso di radio. È basso di radio, è basso. Quale dei due che stai usando? Quale dei due? Allora io sto usando quello normale, quello Lafayette HB23, quello normale con le manopole, grigio e tutto quanto, capito? Quello normale. La manopola, come è il cacchio e tutta roba, senza manopole, così è Gio Mari. No, che c'ha, le manopole grigie c'ha. Sì, le manopole grigie c'ho, ho capito, quello del 1900, questo è del 1977. È 1977 già, quello lì è. No, perché la KB23 è un bel forte di radio. Ma veramente, boh, ma il macchiere, aumenta il macchiere, Giuseppe. Beh, un attimo, guarda a vedere. Ma mettilo al massimo a vedere un po' come va il macchiere, però, No, e questo non lo posso levare, insomma, non lo posso levare, ma macchiere qua, sono tutto quanto a volume alto. E allora funziona, ragazzi. Ma il macchiere ce l'ha quello, sì? Ah? Giuseppe! Poi? Lo sta uscendo, no, lo sta uscendo. Oh, grazie, a riprendi. Giuseppe, ti ha chiesto se il macchiere ce l'ha quello lì, alzarlo tutto. Giuseppe, aumenta, che non ti intendo nulla. Grazie, a riprendi, te lo sento, boh. Ciao a tutti, ma questa parte è Antonio Bombolo, K. Ciao a tutti. buonasera, signor Antonio, ben entrato. Come senti? C'è Giuseppe Leoncino, Gianni W, Gianni Capri 2, Graziano il sottoscritto. Avanti con la buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Giuseppe ha bruciato tutto, grazie. Giuseppe è incendiato, avanti a mari pompieri, riprendi Gianni Capri 2. Non riprenda, riprendi tu Gianni, proprio Ru. Magari la fesseria, perché con gli apparecchi sono bene, magari c'ha qualche cosa da regolare. Si vede il macchino, boh, avanti Capri. Ok, no, la cambia 23, ma che non è, ce l'ho qui vicino, ce l'ho, dove non è, c'è il volume e squelce, non c'è altro, ma con l'imitatore di sempre e poi non so gli altri come sono. Giuseppe, ci sei? Ci sono, ciao Gianni, di nuovo, guarda come siete con questo. Qual è quello? La manopola con numeri blu, hai capito? Numero blu con il conto centro al centro, dai, capito? Con la manopola per cambiare le stazioni. Ascolta, vieni a farmi vedere, vieni che mi fai vedere. Quando è che sei disponibile? Io dimmi, quando sei disponibile te le faccio vedere tutte e due, hai capito? Che io anche sono in casa, se vuoi vedere adesso puoi venire. No, non c'ho benzina adesso già, non c'ho benzina, a salire a casa tua non c'ho benzina, hai capito? Dimmi quando sei disponibile, tu quando sei, scendi, te le faccio, ci diamo sotto casa, ci diamo un appuntamento sotto casa di Antonello e le vedi. Ok, ti stiamo dicendo una cosa, Giuseppe, scusa Giovanni, che no, per me sono curioso di vedermi, perché sto guardando anche di prima, scusando, a vedere che cavolo di apparecchi sono. Ma dietro cosa c'ha l'alimentazione? Con una spina alimenta, così? Cappa. Allora è già si può HB23. Ok, riprendi Graziano. Buonasera a tutti, Marco Condor da questa parte. Una bomba sei, Giuseppe. Ah, Gio Mari, com'è adesso? Adesso va bene, no, ma quello è, quello va bene. Ma l'altro però, l'altro che come radio è scendato, Giuseppe. Non lo so perché adesso, quando è, non ci vuole niente. Quando Gianni è disponibile, viene sotto a casa di Antonello e le faccio valere, capito? Con Giuseppe imbarattiamo subito, ti do una stazione base, mi stai dando? No, la stazione base non mi interessa, a me mi servono, e li sto dando perché mi servono soldi, già, no? Hai capito? E se no non le avrei neanche dati. Io che stavo scherzando, ma il prezzo, si può dire in frequenza, quanto è il prezzo? No, in frequenza non lo posso dire. Se mi fai una bassa, guarda, segnati il mio numero cellulare. Neanche penna, ci ho spesi, qui sono messo male, veramente male. No, io lo volevo solo vedere, aspetta, non darmi il numero adesso. Ti chiamo io a coso, a Antonello, fai così. Parlo con Antonello, hai capito? Poi vediamo, no, ma per il momento non li sto acquistando per il momento. No, non sono curioso di vederli, è solo di vederli. Internet non le hai a metterli. No, non ne ho io internet, no, non ne ho. prezzo, dunque te lo fai vedere a lui, c'è il mio numero cellulare, se ti interessa, sono qua, sono, se io te le porto, te le guardi, te le prove, non ce n'è problema, te le faccio vedere come funziona tutto quanto, sono funzionanti tutte e due, anzi, diciamo che gli ha messo a posto Antonello questa cosa, capito? E allora sono convinto che vanno alla grande, riprendi Gio Marino. Ok, è sensato, invece facciamo via avanti Antonio Bombolo, avanti a tu. Ehi, ciao Giuseppe. Ciao Anto, buonasera. Buonasera anche a te. Grazie Gio Marino, mi hai fatto venire avanti. Allora. Adesso sto cercando di sbacciare queste due barattine che mi hanno dato e vediamo un po'. Tu ne hai sempre uno, no? No, c'ho sempre il mio, quello grande. Però c'ho queste due che mi hanno dato che hai capito. Gaffa. Ok, riprendete, ci sto quasi per chiamare, Giuseppe. Hai capito? Chiama, fammi una pace, dai, poi ti spiego. Facciamo l'amore. Ammazzate in valia. Sono entrato adesso, caro. Se vuoi venire, sono qua a me. Ehi, mi stavo dicendo a Tonè, di quei due baracchini. Lui li vuole vedere, ma dice che no. Comunque non li ho messi a posto perché funzionavano tranquillamente con i baracchini, tanto per chiarire, sa che viene in mente qualcosa a trarre qualcuno. Gli apparecchi funzionavano benissimo, li ho provati e funzionavano bene. Io non lo so. Chi li vuole li lascia riprendere, chi non li vuole chi li lasci, diceva quello. Caffa, saluto tutti quelli che ci sono in ruota e Antonetti, se vuoi, se hai la possibilità vengo, se no a domani. Già non mi disturbi, vieni qua, così ti salgo quella colonnina. Va bene, là. Ciao Giuseppe, ciao Gio Maria, ciao Bombolo, ciao Graziano. Quelli ti per me. Comunque sono tutti quelli che sono in questo canale. Bello guarnito stasera, è la ora. Ciao Marco. Ciao Gianni, ci sei anche tu. Non t'avevo sentito, ho sentito gli altri, ma non t'avevo sentito ancora. Capo. Va bene, non c'è problema. Ciao Alice, anche a te, ben sentito. Marco, buonasera, ben sentiti. Buonasera a tutti, vado ad Antonello che gli devo fare l'allaccio. Mi raccomando, i parecchi la hai. Ciao, va, senti com'è a Gio Maria. No, vaselina si chiama. Valentina. Sono Marco, paraviglio in te, sono vaselina, vabbè, Giulio, grazie, a riprendo. Ehi, guarda, ci vuole l'acido muriatico. Una passata di cannone ci vuole. Sai, lo viene l'altro lì. Cosa mi dici? C'è il zaino blu che ci vuole. Come sto uscendo sto trovando un apparecchio, un samurai. Va bene, va benissimo. 9.35, sì, va bene, super. D'accordo, va bene, ok. Antonè, come quello lì è? Come quello lì, sì. Il frontalino agentato già. E il display di colore verde. E il frequenzimetro perlomeno. Allora, qualità di modulazione, effetto presenza, forte, squillante, un bijou. Sono contento. Andrà bene. Non ho preparato quello là. no, quello non l'ho provato ancora, gli ho saldato il coso, domani lo provo, vediamo un po' se funziona, e se c'è magari qualche problema controllo se c'è qualche altra cosa, boh. Perché il pilello è nuovo, il lato è altrettanto nuovo, quindi il gioco deve funzionare. Va bene, che distacco, lo distacco questo qua e ci metto il normale, dai. No, guarda, poi lasciare anche quello che c'ha una bella modulazione, c'è un'amplificata addirittura di quel microfono lì, solo che è un 23 canali, il discorso è quello. Lo so, sembra modificato, no? Il mic. Questo tappo sotto me l'avete venduto così, baracchini, avrei aspettato altri 3-4 anni e poi li avrei venduti. Perché tanto succede così, mi adesso se parlo di vendi... Perché non hai detto bene? Guarda che se rotto quello faccio 46 canali con gli HB23, c'è la panziera, quindi. Ok, Giovanni li prendi. Già sta dopo mettere male. Adesso dai. Non so sottovalutarli a Torello, dai già. Da queste cose già li so fare. Scusate. Allora vediamo un po', doppio ru, avanti, dove sei? Mi è arrivato a casa, dai, io riprendo la casa appunto, mi fa piacere che sarà un bel arrosto da te. Ok, d'accordo allora, riceviamo il micro a Graziano Mesina, avanti Graziano, e tu, riparando sai, sì? Graziano. Graziano mi sta facendo la cena. Non è a quel punto, Graziano, Antonio, non è a quel punto, va bene, chiusi, riprendi, dai. Ci sentiamo. Marciano. Ciao Giuseppe, un po' proseguimento serata. Bomba ha chiuso, Capri, riprendi. Ok, perfetto. Non sapevo che c'era questa problematica di umanità che non si poteva mettere l'antenna. Perché ho sapevo di anni che prima qualche po' l'ha ascoltato, adesso proprio ormai. Si vede che anche l'antenna mia può essere che, perché prima appena appena arrivava e invece adesso l'antenna non ci sono più salito, sono tre anni che ho piazzato, quattro anni che ho piazzato, non l'ho mai toccata, hai capito, però l'avevo capito, piazzata a pelle con vulcanizzante e tutto lì. Giuseppe, saluto VQMT e fatti sentire a faccia anche ogni tanto. Però non è un problema, è che devo buscare la valvola, hai capito? È quello, non fare. Quell'altro io che mi ha fatto Antonello c'era proprio fuso, hai capito? E avevo fatto piazza pulita, ne avevo uno, ne avevo della comprato dalla GPC, la valvola si era salvata, Giovanni, però era la, quella, la 519, non la 509, che sono precise. E sto cercando dappertutto i garage dove ce la posso avere ficcata questa accidenti. E quei commessatori, Giovanni già si busca quella roba lì, il transistor, lì è partito anche, c'è un transistor, anche quello è partito, però in più bisogna buscare la valvola, sto pensando anche a qualche che non sia saltato anche, qualche secondario dell'alimentatore. Ascolta, mi sembra che la valvola, che ero io, non me la sono ricordata, andate, io ero una nuova di valvola, non mi sono ricordato, ma se dovesse capitare di passare questa parte, te la do e la provi a vedere un po' già, quella è nuova la valvola, non è stata usata, capito? Per cui io ho provato così e basta, ma l'ho provata se si accendeva, ma non ho provato se funzionava o no, quella valvola che so io è nuova nuova adesso, capito? E quella te la do, non le faccio niente io già, e la provi e vedo un po' come la stazione, altro non ti posso dire. Oh Giovanni, ma la questione di come si chiama, prima bisogna, perché abbassa anche la correlazione, come si chiama, vedo che come dopo anche la luce di casa stava abbassando, ed è anche pericoloso, secondo me c'è anche qualcosa, qualche secondario del trasformatore, però già hai capito, io quello di Antonio l'ho fatto male, vabbè quello lì era completamente incendiato il trasformatore e già aveva i condensatori, Giovanni, ne aveva quattro condensatori, quello che mi ha dato fuori, perché il lineare è l'impegno, sì, è un 131 però diverso, non c'è quell'interruttore, io dietro c'è quello di Pompone, che quando schiacciavo si accendeva la lampadina rossa, e capito che c'ha quattro condensatori, però non ho problemi con quella roba lì, con calma, però non è una cosa che ho mangiato e lo faccio fare a chi lo deve fare, però devo buttare, hai capito, la valvola, perché quella lì è partita tranquillamente. Sicuramente per lì Giovanni è capitato, la stessa cosa, qualche guasto alla scanto di bavetta, che devo vedere se io di qualche io ho un capacità mai se tensioni, poi già piano piano già si mette a posto, hai capito, non è un problema, però bisogna stare attenti perché lì arrivano tensioni, uno non è fulminato tipo la serie elettrica, mi Giovanni. Quando ti viene bene a passare qua te la do, io non faccio niente io, capito? E bene un po', e dopo vedrai tu cosa fare, capito? Piano piano, fretta non ce n'è, per cui mettiti la posso bene e sei tranquillo, ok? E tanto anche Gianni, Cappa, e ringrazio che ti batto anche i finali con i passaggi che fai, sono curioso di scendere di entrata. Cappa i due. Mi battono qualche volta che stiamo lavorando già, che ti chiamo e che ti addormenti, come fai ogni tanto, che ti rilanciamo e cadi nel mondo dei sogni già. Ok, vieni avanti, vieni. E purtroppo quello non è colpa mia, è dovuto al diabete, non è colpa mia se mi addormento così. Vorrei non farlo, ma purtroppo non dipende da me. Ok, detto questo, ringrazio tutta Giammaia. Ok, allora ci fa dormire al diabete, già. Certo, ti stanca, a parte che sono stanco dal lavoro, però ti stanca in una maniera tale, anche se non fai nulla, ti senti sempre stanco. Ho capito, è un macello veramente, vabbè, quando ne stanco poi peggio ancora, per cui bisogna riposarsi. Comunque già stavo dicendo Gianni, va bene, capire, allora va bene a fare il turista, io penso che la parola non gli manca, cosa dici già? Davvero, ormai sarà un discorso all'altro senza fermarsi un attimo, Ok, già, diciamo che il calcio non mi piace, se no è stato tipo Sandro Ciotti, io anche Giulio già non è di meno, già ci vediamo, vero già? Non lo metto male, quando eri piccolo ti dava tutti i grammofono da mangiare. Già, quando ero piccolo ero molto taciturno, proprio a levarmi una parola ci voleva, non è finse. Proprio non ha parlato quasi, però poi diciamo, piano piano, la parlantina. E detto, ma era così, mi mamma è sempre nende di cura. Sempre nende, sempre nende, proprio molte volte mamma con le risponde e quasi un marito. Perché se no, se uno sta troppo zitto, se non parla, diventa una noia, per cui meglio che uno si dia la palla. Ma anch'io sono un po' taciturno, non è che chiacchiero molto, magari prima sì, però adesso magari mi sono calmato e dopo poco, diciamo 10, un quarto d'ora, comincia a staccarmi, spiro, spengo e me ne vado già. Stavo dicendo, ma se ne vogliono presentare qualche candidato a fare qualche comizio già, cosa ne dici? A Berlusconi bisogna interpellare adesso, oppure a Grillo. Ieri mi hanno invitato Gio Maria a Sassari, no, perché veniva il candidato alla regione, noi facevamo il corteo, però non penso proprio a Conaduno, non mi becchi qualche bastonata, qualche cosa, cioè, dalla stazione saliva a piazza Castello, mi sembra, non penso proprio, ho detto che ci vada. Ehi, vabbè, Dario Piurru. Ehi, già fa affari Gianni, se va a fare il cronista, sì, ce l'ho di manca, l'ho detto, ha mangiato tutti i grammofono da piccolo e quindi a quando sarà smaltito tutto quello che ha mangiato. Cioè, lo sai che le prime volte avevo vergogna anche di, prima volta nel baracchino di parlare, proprio ero vergognoso, insomma, di una cosa, e che lo sapevo come entrare le prime volte. Poi in gergo si chiama micropanico, se te lo ricordi. Ma poi già ti sei rifatto, là. E perché c'avevo un figlio di buona donna che mi ha insegnato, che Dio Maria se lo conosce, mi ha insegnato a diventare, capito già, sfacciato anche, che Dio Maria. A quello già non gli mancava la faccia già. Una gonca, no, sono dispiaciuto, ma già te l'ho detto per cosa, almeno una telefonata, papà, lo dovevano fare, con un telegramma, capito, perché la cugina di primo grado, la moglie, con mamma, e gli altri cose, io non so per cosa, noi abbiamo fatto mai niente, non ci è venuta né quando è morto nonno, né quando è morta mamma, non lo so uno però una telefonata, perché c'era due volte la moglie e parente, sia dalla parte di mamma sia dalla parte di papà, va bene, insomma, io non si è mai fatto più vedere, hai capito? Perché sai mio cugino con il papà che nel metro che ci scendevi, cioè, ma se ci passa, non è che io devo scendere apposta lì a trovare a lui, capito? Hai capito? Sei mesi fa alle poste, ma ha guardato, era in barba, c'aveva la barba, sembrava un di quelli vagabondi, e ha detto, non lo so, prima non era così, però sono da parecchio adesso non lo vedo, prima lo vedo molto spesso, però adesso è da parecchio che non lo vedo. Però ma c'è un figlio grande adesso, se non sbaglio, maschio, no? Un maschio non ne ha, erano tutte femmine, Dio Maria, non ne ha mai avuto maschi, ha avuto Antonella, Cinzia e a Giovanna Maria, no? Non ne ha avuto mai maschi lui. E vabbè, lo fa i nomi, dai. Ok, non mi ricordo, non mi capito? E per cui allora non era il figlio, era ingenuo senz'altro. Sì, vabbè. E cosa vuoi fare? Tutti uguali lo siamo. Sei buono, sei cattivo e così via, vai già. E qua se fossimo tutti uguali sarebbe monotona la vita. Purtroppo non siamo tutti uguali, no. Ma è meglio che sia varia la vita. Infatti, è così, sennò sarebbe un mortuorio veramente. No, beh, la parte sua ha preso adesso Gianni Capri 2, capito? Madonna, cazzo, mica parla di Gianni, stesso Madonna. No, certo lui che c'è questa grinta, vatti già. Io lo chiamo Falcone 2 la vendetta. Mio marito ho perso, sono stato 2 anni seconda media, bocciato da questa cirite di baracchino. Me l'ha contagiato già questo zio, hai capito, acquisito, ma in pulizia, la passione del baracchino, hai capito. 2 anni seconda media già sono stato per colpa sua. E vabbè, vuol dire che non ne avevi voglia di studiare, se no ne saresti passato. No, io grazie a Dio sono passato liscio. No, io ero sempre come rientravo, non studiavo nulla, proprio niente, direttamente attaccata a questa roba, a casa sua, perché non ne avevo, hai capito? E non duravo da solo prima già, hai capito? Come era la situazione, è così, ma sono passati tanti anni adesso, credo sono dei bei ricordi, hai capito, riprendi Gio Marini, la scuola era verde, confermi che era color verde la scuola. Ehi, infatti, confermo, a macchina brutta, ecco, allora, quella scuola l'avevo presa in Italia, c'era, aspetta, chi c'era che vendeva, prima vendeva le moto, dopo ha preso la rappresentanza della Skoda e ho preso, ho versato la 500 panoramica e ho preso la Skoda, capita, a che cosa della 500 familiare? Sei io che me ne ricordo, allora sai che c'era lì Gio Marini, Corradi, confermi? Esatto, bravo, infatti la Corrado l'avevo presa, sì. 1,2 milioni l'avevo presa allora, la scuola. Però, certo, la prima che era uscita, per cui non era andata, capito? Dopo ho detto, poi non si poteva nemmeno fare la, come si chiama, la campanatura, era senza regolazione, non aveva niente. Così che quando superavo i 70, allora cominciava a vibrare lo stesso, perché se lo stava attento si buttava fuori. E allora l'ho venduta a uno e mi sono preso al 126. E vabbè, era preferibile lasciarmi la 500, almeno quella camminava sempre, mettevo tutta la famiglia e potevo girare tutta l'Italia con quella 500, non si va mai ferma. Io me ne ricordo che l'avevano quelli della City, così era Gio Marino, quella lì stai dicendo? Quella lunga, aspetta. Bellissima la macchina, aprivo la cappotta perché la cappotta apriva tutta quanta e caricavo tutta la famiglia che mi andavo in giro e altri tempi che ho fatto uno strano con quella 500, è andata sempre bene. Sì, ce l'aveva anche un amico mio, ce l'aveva, che poi l'aveva rottata, non rottata, buttata, non sarà dire che si è venuto perché l'aveva niente, non so che chi gliel'aveva data a lui, era verde militare con questa macchina, e si dico Gio Mari che poi che l'aveva abbandonata in una campagna, veniva gente a chiedere, non so a chi, capito, anche come se l'avrebbe buttata, che era portata funzionante, capito, una campagna, ecco, c'ero, però era molto bella come macchina, riprendi, tu già te la ricordi, no? E io ho avuto la 595 Giannini. 500, 5,95 Giannini, tutta quanta accessoriata dentro, c'è un contagini, contachilometri, grande, tutta particolare era. Se me la ricordo già, Dio ci aveva la cosa, la 585 Ambart, c'era anche la Golf all'epoca, che era appena uscita, però ci aveva questa 595 con tutta la famiglia allargata, capito, era con poppa a parte, camminava un bel questa macchina. Quando usciva lui già tutto tranquillo, no? Perché era carabiniero, se lo fermavano, e me l'ha veduta uno già come gli hanno fermato, gli hanno ritirato il libretto subito. Ma era bella, veramente fatta bene. Riprendi Gio Marino. Ha avuto anche la 500 bianchina, però per poco tempo quella l'ha avuta, anche quella era la macchinetta, questo mi avevo niente, mette 10.000 lire di benzina che attraversavi per un mese, non costava, consumavano niente, per carità, mentre con l'altra invece la panoramica, quella lì, una volta sono andato a Roma con tutta la famiglia. La prima volta che sono andato in macchina a Roma mi sono perso, che sono andato a finire proprio invece andare verso le cose della Cinecittà dove abitava mia sorella, sono andato a finire a Piazza San Pietro, sono stato mezza giornata girando e ho sempre sbagliato. Ho visto, non c'era il tonton. E io ancora mi ricordo, quando mi vedevo tutti mi guardavano, perché avevo tra la grafia dei miei figli sopra, per cui la macchina tira, poi tira i bagagli anche. Però ho girato, non si è mai ferma, mai, finché non l'ho venduta e ho preso la 126. Ma voilà, bello quarto, per cui ne approfitto e per cui vi lascio, buon proseguimento di serata, buon proseguimento. Ciao Gianni doppio 2, ciao Gianni Capri 2 e a resistenza domani se coincide. Vai Capri 2. Sì, perfetto, ciao Gio Marini. Giorgio Maria, buona serata, dai, buona continuazione, ci sentiamo domani, là. Oh, Capi2, riprenditi il mic. Sto sempre parlando, già che la lingua più grande. Ok, un po' è andato a bagnarsi la lingua poco fa, ma non è più rientrato. A come, ma ci sei? Dove andare Marco a casa sua, probabilmente stava facendo qualche lavoro, sentite che doveva piazzare la colonnina. Ah, è vero, ma adesso è in ascolto. Ok, sì, mi ero dimenticato che stava andando Marco Condor a piazzare la colonnina, sì. E così già, com'è il movimento a Sassa, dice, com'è, io non sto crescendo già, sono stato per fare le commissioni da sera, hai capito, con questo aspetto penso che la gente sia ritirata in casa. Ma cosa, se passa al quadrato non ci possono anche passare dalle macchine che ci sono. Cioè, la Dinamo Banco di Sardegna, penso che sta giocando lì, o la Torres, tutto pieno di macchine, non si possono anche passare. Ok, perfetto, sì, per qualche partita sicuramente. Ti volevo dire, ciao Marco, ma Roberto Quadrato che fine ha fatto? Boh, ha detto che ha avuto da fare cose importanti e non l'ho più sentito nemmeno io. Ha detto che aveva cose importanti da fare. E l'ho chiesto al computer perché ce l'ho, diciamo, tra gli amici. Glielo ho chiesto al computer, lo vedo, ma qua non sta pensando. Ok, infatti no, vedo che la domenica si affacciava sempre, capito? Faceva piacere scambiare due chiacchiere, hai capito, anche con lui. Ok, ma l'importante è che sia in buona. buona salute a voi. Quando vuole già siamo qui. Sì, sì, quello sì, me l'ha detto che è tranquillo, che sta bene. Però ha avuto da fare, quindi non so che cosa, ma non lo so, se fosse stato manco a chiedere perché non mi interessava. Mi ha detto che ha avuto da fare cose importanti, quindi lì l'abbiamo troncata. Ok, perfetto. Guardando le lucette del, come si chiama, degli inuiti, quando schiaccio la verde, quando schiaccio accende la verde perché con le modulazioni, e nella verde già c'è come una bicchiere, come una bicchiere si vede dentro, e come una rovesciata nella rossa. Hai capito bellino questa radio, eh? Ok, perfetto, perfetto, però. Veramente mi sembra affascinato quando si accende la lucetta della modulazione. Ti stavo dicendo già, ma quindi questa fotografia che è il prato delle Ducati, molte, quante ce l'erano, lo sa poco di Ducati, perché so anche di chi sono, per vedere se c'era la mia Ducati lì in mezzo. Arrivata vicina, penso, 8-10. E allora quasi che c'era. Buonasera, avanti. Ho detto canale Furata, quella lì, canale Furata. Ok, allora. No, l'ho venduta veramente, l'ho venduta questo signore qui, perché non ci cammino più in moto. Perché Alessio di Gentili? Come? Che Alessio? Sì, non lo so, io già, ormai, mi ho fatto l'orecchio, anche altre cose, ho fatto molte, si è fatto la pressione d'aria e poi lui alto, hai capito, secondo come lo metto, lo metto in fondo a scala, forse è un po' meglio. Altro è, già stata questa colonnina? Ernia, già fatto. Cosa c'aveva? La colonnina rotta, lì? La colonnina rotta, misurata oltre a essere, era proprio zero, interrotta. Adesso va. E io cosa ti ho detto? Era la colonnina, cosa ti ho detto? Ah, anche tu me l'hai detto, io me l'ha detto anche Pomponi. Infatti era quella, lui ci è andato proprio a colpo sicuro, io non credevo nemmeno che fosse quella. Non te lo ricordi che ti ho detto anche, basta fare una prova, metti una colonnina esterna e tu metti il nuovo e sono new bugia, te lo ricordo. Ah, l'autoparlante interno. Aspetta un attimino, capito. Non te lo ricordi che ti ho detto, metti una colonnina esterna per fare la prova, così sei sicuro se è quello. E tu metti adesso non è un bugia. Ehi, l'ho fatto ieri. Allora, tutte e due me l'avete detto praticamente, di provare la colonnina esterna. Ieri ho provato e funzionava benissimo. Poi controllata col test era proprio interrotta, ma io credo che si rovinasse altro i baracchini, ma proprio l'altoparlante non ci avrei mai pensato. E la membrana, magari, è un baracchino che c'ha anni, quale apparato è? Conno, 4000. E la Colombia originale gli ha messo un'altra? No, gli ho rubata da un baracchino. Aspetta un attimo, l'ho fatto qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, così è sparita, allora è così a posto. Aspetta un attimo. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E beh, come si interessa bene, meglio? Ti sento benissimo. Oh, va bene, adesso chiedo di baracchino. 5 minuti di querisi per me. Calma. Avanti, capri 2. Ok. Ok. No, siccome lui, Marco, ha attaccato con il direttore sentiva, quindi ho scegliere il bilet perché l'altra vez del baracchino è rossa, perché altrimenti non si dovrebbe sentire. Hanno, diciamo, la ricezione, non si deve sentire la roccola con lui nel tempo, è quello lì che stavo dicendo. Ok, ma mi portate a poi non c'è le ali roba. Quindi già nel foto quando me ne fai vedere pubblica nella tua pacchetta, così è vero e molto. No, non ne metto, su internet non ne metto. Ho deciso, non metto più nessun tipo di foto. Perché la perdita di tempo, non è pure a stare rompendo mi lesca, poi non mi piacciono i computer. Io infatti li ho scaricati tutte sulla pennina, mi comprerò una pennina grossa per mettere tutte le foto che faccio, poi quando le voglio vedere posso attaccare anche al televisore, attacco al televisore ma le guardo senza nessun problema, oppure le posso stampare direttamente col computer, ho la stampante e metto la carta fotografica e mi stampo quelle che mi piacciono. Fai bene, e fai bene. No, io ero curioso perché la moto mia è stata esposta, cioè il Ducati mio, il Marchi 3, con Mauretti e 350, perché so che uno me l'ha detto, adesso, c'era questo signore, ha detto che so che tu l'hai venduto una Ducati, sì, ho detto però, hai capito, non ci sono domandato già perché poi ho avuto l'affare, infatti volevo venire proprio a vedere se c'era la moto mia lì. Ebbene, altre cosa te tieni a fare? A fare il frangiglia, non ti rivedi? Come? E le altre non te le vendi? Oh, mi ho lasciato il Ducati 98, la Vespa, avevo fatto via il Suzuki 380, avevo fatto via il Ducati 350 Marchi 3, e poi avevo fatto via quella Honda da corsa, il 125 MSR, basta, capito, ho lasciato la SR, la moto, il 98, il Ducati e la Vespa. E avevamo anche le RS una volta, io ho dato via anche quella, no? Molto niente, già è un coso, c'è un nuovo, però siccome in garage non voglio fare molto casino, non è da papo, i Fippi, i Maracuti. Ho capito. Ma se non le usi queste moto, vuole lasci fermi così? E da quali sono le cose di famiglia, cioè la vecchia era di nonno, la Ducati era di mio padre, capito? No, non le do quelle. Ah, ma le tratti molto le metti? Sì, che le metto, come no. Capito, la Ducati ha il primo colpo metti in moto, è a quattro tempi, quella lì, ha il primo colpo metti in moto. Ma per lasciarle ferme così avrei preferito farle girare, farle vivere. E visto Fabrizio ha risumato un apparecchio che non funzionava, l'ha risumato, lo so quanti Fiat ha collegato. E già lo so, stavo ascoltando. Sì, già, ma non ho più voglia di andare in moto, io già ho tutta la vita da ragazzino, io ci ho avuto, lo sai le Ducati Scambler che ho avuto, non ne hai un'idea tu, hai capito? Ho avuto anche, come si chiama, Suzuki 850 GS, 380, hai capito già, ne ho avuto molto, quindi proprio non ne ho più voglia di camminarci. Ma se tu avevi la passione, almeno queste, diciamo, questi incontri che fanno di motoraduno, eccetera, eccetera, potresti farti. Poi non dico di stare sempre in moto, però almeno che si motoraduni. Ma già ci andavo, già, però non posso fare sempre in giro, già, hai capito? Sempre in giro, io la moto lo usavo anche al lavoro all'epoca e ho preso anche freddo, cioè, hai capito? Ormai dove vado con la moto già, dove vado, hai capito? Quindi, boh, non lo so, la passione anche io pensavo che durava, però poi, hai capito, mi ha tuffato, quello perché ho girato troppo in moto, hai capito? No, sono belli già, però non più di tanto, non c'ho più 20 anni già che aprivo il garage, tiravo la moto, andavo a girare, hai capito, a cercarmi ai nuovi amicizie, capito, però niente, ormai ho le tacche ciotti, dove parlo, hai capito, se avevo avuto questa di una 20 anni, allora sì, però, hai capito, la moto mi sembra che anche è tramontata, negli anni 70 c'era il boom delle moto di questo mondo, adesso, diciamo, sì, come si chiama? C'era il boom. È come prima già, ci sono questi scooter veri, questi scooteroni. E non è come dici tu, già ci sono anche del Red Division, ci sono moto grosse, già ce ne sono ancora. Tu non è vero perché sei in paese, sei chiuso lì e non ti muovi, vai fuzza. Ma in città già ci sono, anche a Porto Torre, se sei per Porto Torre, c'è il Red Division. sono molto di quelle grosse, specialmente d'estate, del video e a Puglia. Anche io non c'ho più 20 anni, pure giro molto, certo non è più come prima, si andava a Platamona tutti in greppa, anche una ventina di moto, tutti quanti in greppa andavamo a farci il bagno in moto, mettevamo 1500 euro di benzina, di miscela e poi via, si partiva tutti con le ragazze dietro e cose, era una cosa diversa. La mia era la Scrambler che aveva riservato io. Consumare consumava un casino quella moto, e se il batterione che conteneva molto, bisogna sempre quando uscivo, secondo dove andavo a studiarmi dove c'erano i fornitori, allora non c'erano automatici e così a rifornire a una certa ora di nuovo la moto per rientrare, consumava per consumare lo Scrambler. Tutti i modelli ho avuto il 250, ho avuto il 350, il 78 ne ho avuto il 450, il 450 ne ho avuto due, ma diciamo già che erano bellissimi. E li ho avuti tutti e tre assieme, già non è che vendevo, ne avevo tutte e tre le moto mi già, hai capito? Tutte e tre le tre moto che le avevo fisse di Scrambler. Una era gialla, no, due gialle e una arancione, 250 era giallo, 450 giallo, arancione era 350 lo Scrambler, hai capito? Ma tutte le notte addosso mi diceva, poi dovevo restaurare questa casa perché ero qui dentro, non so, farle fuori avevo lasciato il marchipreso, Ducati, e le altre che c'erano, però proprio, hai capito, da quando mi ero sposato. La voglia di uscire era già venuta meno. Poi c'è qualcuno che vuole entrare avanti. E va bene, lo chiamo Falcone due la vendetta. Ciao Gianpa, ben sentito, dai, avanti. Avanti Capri 2, per saluti a Giampaolo Silvestri. Sì, buonasera Giampaolo, ti ascolto, non so se sei in barra mobile, a tratti, qui in Capri 2 che super cordializza, sia a te a tutti i componenti che c'hai nella vettura, se sei in movimento, oppure al QRA. Ok, imbriago. Cambio Giampaolo, se mi stai ascoltando, se non mi farà da ponte Gianni. Avanti Silvestro, vai. È una vettura fantastica. Ottimo Giampa, ottimo segnale, ottima radio. Parlare un attimino con Claudio e vedo un po' se lui esce meglio, va? Falkner. Perché anche la modulazione? No, no. Vabbè, lascia perdere, pianta, no, non ce n'è più, con un non ce n'è più. Lascia perdere il segnale, saluto a tutti perché non sento nessuno. Mi interessava solo sapere se per la radio andava bene. No, con te è chiara, è chiarissima. Con Massimiliano forse non ne si è dichiarato in mica sua, boh. Massimiliano c'ha la voce alla culo, va bene. Vi saluto, grazie a tutti, salutami a tutti che io non li sento, ciao. Capo, Claudio vi saluta a tutti. Si tocca. Sono mezz'ora che faccio la chiamata, ma evidentemente non sto uscendo. Boh, io sinceramente non ti ho sentito, se no ti avrei fatto entrare, diciamo, buonasera. E probabilmente parlato, quando hanno parlato gli altri, vi siete sovramodulati, quindi non ti ho sentito. Ehi, capo, non fa niente, non fa niente. Ciao Gianni, buonasera. Va bene, va bene. Sì, vi ho dato una regolata. Lampo che ti ho capito, vabbè dai, siamo abbastanza vicini forse per quello, dai. Vabbè, fa niente, Gianni, a te mai? Sì, ha passato da 5 a 9 quasi, dai, quasi 9, dai, 8 e mezzo, e già va bene, capri 2, ma ho preso di sì, riprendi. No, oh, sono qui, sono, stavo parlando con Bowser. Piano, si è saluto anche a Sano, ma siccome io sentivo che stavano chiamato, stavo lasciando un fianco per entrare, hai capito Aida? Cosa sta che mi devo prendere? No, era una cosa che mi ero anche allontanato un minuto dalla stazione, lo riprendi Sandro? Ciao nuovamente Gianni Capri 2, dai. Va bene, già vi ascolto, dai, io sono qui che opero, già vi sto scucciando, va bene. Riprendi Capri 2, va Capri 2, doppio rumbo. Dimmi come mi stai ascoltando, c'è di bello che di segnale con questo apparato, dai, che ho cambiato apparato. Non c'avevo l'occhio sullo smitter, prova. Ehi, guarda, dai, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Santiago 9 con leggeri picchi positivi. Il radio è un po' così, ti ho ascoltato meglio. Comunque, è comprensibile. KK. E da te Silvestro, come arrivo? Com'è da te, come arriva di radio? KK, ma è amplificata o si sente normale? Sto parlando da un bel lontano, capito? Senti l'effetto camera perché stavo parlando da lontano. Guarda adesso per vedere come mi senti. Oh già, ma stai usando un mic normale da palmo oppure un amplificato da base? Un amplificato da tavolo. Ah, ho capito, dai. No, è a momenti, hai capito. A momenti è più chiaro, a momenti no. Evidentemente magari ti sposti o quindi la modulazione cambia un po'. E sono lontano, capito? Sono in una camera grande, sono lontano dal microfono, perché ogni tanto faccio qualcosa e quindi schiaccio, lascio schiacciato e poi ritorno a togliere, capito? Sì, ma è quello lì, dai. È quello lì, con l'amplificato, la base è normale, fa quello, diciamo, quello. Non è un problema, non è un difetto, ma è così. Comunque va benissimo, va bene. Sandro. Ciao Gianni Capridue, dai, fai buona carica, buon proseguo di serata e ci ascoltiamo tutte le prossime. Va bene, avanti per i saluti Silvestro. adesso vediamo fin dove arriva, poi vabbè non ce lo smette, bisogna che mi metta le sue vatte, me la colgo subito, sai che caso va a scenderlo. Già lo sto controllo, magari faccio contatto nel potenziometro della potenza. Ma finalmente cosa stavi vendendo quell'Alan che c'hai, quello tipo Galaxy? No, niente da fare. Ok. Ah, non c'è più nulla, tutto venduto via. Pure pesci. Come è fatta, c'è la passione. sella, sopra il laghetto, c'è il laghetto che passa sotto, bellino. Il chef del trattore se non lavora lì alla pizzeria San Gavino. Mi sa che storie ce ne sono tante, speriamo di non raccontarle più perché se no è triste. Ce ne sono tante che sono in difficoltà. Quale c'è? Quello grigio. che era un facsimile, non era proprio originale, capito? C'era uno che era imitato bene, sembrava quello, ma non era quello lì. Avanti, chi vuole entrare? Ho già fatto. Lo switch funziona, non c'è un cazzo. Ho girato solo il baracchino e lo switch sta funzionando. L'ho messo da sopra sopra. Ti giuro, guarda, sta funzionando lo smitter adesso. Mi sono accorto poco fa, cazzo che tu vedevo, ecco, il corpo salire e poi scendere. L'ho messo alla macchina al contrario, ho dovuto mettere. Lo smitter. Adesso se ne scende. Capo, sono effetto strano. Scende, adesso lo pressare. Aspetta un attimo che adesso controllo, che faccio contatto. Se non scende il bosco di radio lì. No, no, è coso, già la potenza si è da zero, aspetta. E io faccio contatto, c'è, cioè, aspetta. Come ti hai attaccato e copiato tutto, poi ho detto non mi ricordo. da chi ce l'ha comprata e ha scoperto anche a lui. Poi c'è tra figli. E come funziona già qua? Ci sentiamo, buona serata a tutti.